e sta per pane, burro e rock and roll. La tua colazione rock. Qui c'è l'Ariele, Spadino, Freak, la redazione. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock Cafe. Belli carichi, belli pronti per iniziare la seconda ora di diretta di quest'oggi. Fatemi augurare il buongiorno ai nuovi arrivati e alle nuove arrivate. Se... mi ero rapito da quello che c'era fuori dalla finestra. Benvenuti sulle nostre frequenze. Serviamo la colazione, la più rock in circolazione, puntata delirante. Non sto a dirvi cosa è successo nella prima ora perché è veramente terribile, se non che abbiamo veramente perso di vista l'obiettivo della trasmissione in queste due settimane di speciale Buon Natale però rock, che era occuparci dei problemi del Natale. Dovremmo essere riusciti a riprendere la situazione sotto mano, quindi potremmo anche sentire qualcuna delle vostre interessantissime testimonianze là fuori. Ringrazio però Emiliano, che raccatta al volo il mio appello lanciato qualche tempo fa, non so quantificare, dove ricordavo la famosa missione di Pane, Burro e Rock and Roll, Davide contro Golia, la nicchia vincerà, saremo pure una radio locale ma vogliamo spaccare anche contro i network. Emiliano mi contatta giustamente via SMS: volete fare concorrenza ai grandi network? Battiamo allora Isoradio in tempo reale, traffico scorrevole sulla A11 Firenze Mare, cielo limpido, buon rock and roll Emiliano. Emiliano sta in campana che a gennaio, quando riprendiamo, quando non c'è più la fuffa del Natale, questa cosa di battere Isoradio con le vostre segnalazioni mi piace tantissimo. E a proposito di segnalazioni, allora salto anche a un altro, Graziano, si firma Circonvalla Man presente. Mamma mia, che disastro oggi, meno male che ci siete voi. Ciao voi in tangenziale, vi siamo vicini. Mentre sale la disperazione mia, dell'Ariele, perché continuano a fioccare mail all'indirizzo ariel@radiorockfm.com con richiesta del nostro calendario, giuro che mi occuperò personalmente di ognuno di voi là fuori, anche se siete già ufficialmente in troppi, ma va bene, troveremo una soluzione. Sono contento perché ripiglio le redini di questa trasmissione. Siamo ufficialmente nel Buon Natale però rock e dobbiamo occuparci, come abbiamo promesso, delle problematiche del Natale. Abbiamo una storia con un happy ending, e questa è un'altra cosa che apprezziamo molto. Do il benvenuto a Stefano da Lucca. Benvenuto a Pane, Burro e Rock and Roll. Ciao Stefano. Buongiorno Ariele, buongiorno a tutti. Oh, non ci occupiamo di dove sei perché in fuori onda già ci siamo impantanati in una discussione che non c'entra niente. Saltiamo subito al problema. Stefano di Lucca attualmente sta per andare al lavoro. Esatto, sono anche in ritardo. Sei in ritardo e ci è andata bene, se no ti facevamo licenziare perché venivi in diretta dal lavoro e ti beccavano. No, però dopo mi darai una scusa per arrivare in ritardo, esatto. Mi raccomando, dillo a Frick. Lo chiediamo a Frick. Stefano attualmente sta facendo il lavoro che sognava, ovvero lavorare con le motociclette. Esatto, lavoro in una ditta che fa pezzi di moto, diciamo, verniciatura principalmente, però prima... Esatto, perché questo è l'happy ending. Il grosso problema è il prima. Per quanti anni hai fatto un altro lavoro? Per altri 6 anni ho lavorato in una ditta invece che faceva solo cose di Natale. Sentite, amici là fuori che vi lamentate nella tangenziale, questo ragazzo è stato per 6 anni in un posto, ma tutto l'anno facevate cose di Natale. Tutto l'anno. Non c'era mai un giorno escluso, guarda. Era non era come lavorare per Babbo Natale? Più o meno, passavi le giornate a ascoltare canzoncine, a guardare Babbi Natale altri 6. Sì. Però anche il 16 di giugno, tipo. Certo, anzi. Anzi di più. Il 16 di giugno era una data importante. Ah sì, perché? Perché tutte quante, tipo, grosse distribuzioni, non dico nome, quasi sì. Nulla. Volevano tutte quante le cose verso giugno, quindi entro giugno bisognava spedire un monte di cose. Io lo dico a tutti voi là fuori che vi lamentate del lavoro che avete, pensate anche agli altri, però c'è l'happy ending perché poi Stefano è riuscito a liberarsi e adesso fa quello che vuol fare. Però Stefano, non volevo perdere l'occasione di sfruttare la tua testimonianza. Volentieri. Cioè tu sai tutto del Natale. Diciamo che ho visto di tutto. Cioè delle luminarie, degli alberi, dei gadget, sai tutto, hai visto tutto. Esatto, anche cose che forse è bene che non abbia visto. No, vorrei proprio sapere quelle, Stefano. Allora, mi dicevi in fuori onda innanzitutto che l'albero di Natale nero che abbiamo lanciato noi in una telefonata qualche giorno fa era già demodé, cioè... Sì, l'ho visto, fai conto, verso 3 anni fa, tre anni meno, fa. I primi alberi neri. E d'altra parte, alberi neri, perimetallari però. Sì, sì, infatti. Era proprio... Ma anche addobbati bene con delle sfere color rame, color bronzo. Aia faccia, un po' gotici. Sì, esatto. Sì, albero di Natale gotico. No, ma lanciami la chicca, dai Stefano, tiraci fuori qualche chicchetta di quelle brutte. Vai allora, sul kitsch. Il kids, penso che i peggio sono i babbi natali alti 1,60 m che cantano tutto il giorno, non smettono mai. Appena ti muovi davanti, incominciano a cantare, non si fermano più. Perdonami, sono quelli che ancheggiano? Sì, sì. Ma quelli che sembrano veri e che fanno impressione perché sono bruttissimi? Sì, e io ho visto, quando ne metti 15-20 in fila ti assicuro che è orrendo, guarda. Fa paura, ne ho intravisti qualcuno in giro per Milano, fa veramente paura. Cioè, inquietante, perché non è il Babbo Natale bello pacciarotto, cicciottello. No, è un manichino brutto. Esatto, fa più hit di Stephen King, sei presente. Esatto, Stephen King. Quelli andavano, Stefano? Andavano troppo. Come il pane, vedi? Sì. Più è brutto, più piace. Terribile questo. Tra l'altro, vabbè, ho già avuto un po' di segnalazioni che non ho girato di gente che ha avuto delle idee su questi Babbi Natale, ma preferisco non dirle. Non credo che siano lontani dalle mie. Allora. Ecco, lasciamo stare. Dell'altro così? Qualche allora, sorpresa? Qualche sorpresa, penso che alcuni alberi di Natale che forse più di tanto non si vedono a giro. Sì. Tipo viola. Robe strane. Dei colori stranissimi, ti assicuro, guarda. Anche era color rame proprio. Cioè con... E invece per quanto riguarda le luci, vi occupavate anche delle luci? Certo, qualsiasi cosa. Candele, luci, sai, tipo... 60-70 metri di luminarie di qualsiasi colore, messe grandi, rotonde, quadrate. Certo. Stefano, container interi di luci. È un piacere sapere. Un container, ti dico che è veramente pesante. No, ci credo. Ci fa piacere sapere che ti sei salvato, via. Adesso puoi lavorare, fare il lavoro che veramente. È stata dura in quei 6 anni? Sì, Direi di sì. Penso che passare il Natale tutto l'anno è veramente lungo. Poi guarda, arrivano già i primi SMS. Il primo che mi arriva recita: poverino. Va bene, Stefano, buon, cioè vai al lavoro, che sennò lo perdi, che è quello sì, che ti piace. Ormai sono qui fuori dalla porta, mi stanno già guardando, quindi teniamocelo stretto questo nuovo lavoro. Ci sentiamo, guarda, mi verrebbe la tentazione di richiamarti nelle prossime puntate, ma se vuoi non lo faccio, perché non vorrei... Puoi farlo quando vuoi, guarda, mi fa solo che piacere. Se visto che in 6 anni avrai una marea di cose da raccontare, quindi magari le prossime giornate prima delle 8 ti do un colpetto, eh? Va bene. No, cioè non vorrei che ti fa male ripensare a quel periodo. No, anzi, okay. Ora in questo momento mi fa solo che ridere, quindi... Ciao Stefano, buona giornata! Grazie anche a voi, saluto a tutti. Oh ragazzi, 6 anni con di fianco i Babbi Natale che ancheggiano, roba forte. Are you up in the middle of the night, like a firefly without a light? You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promise myself I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train. Track. Runaway train burning in my Roberto Friccantoni, sale la tensione. Perché? Perché? Perché? Collegamento Milano-Lapponia. Ah, me lo dica, me senta lo dica. Senta il fruscio magico che ci fa arrivare fino in Lapponia. Milano chiama Babbo Natale. Babbo Natale, ci sei? Pane, burro e rock and roll. Chiama Santa Claus. È Natale, Natale, ma mica in otto e pane. Bentornato, Babbo Natale. Eccoli qua. Natale, milanese. L'unico Babbo Natale di Ro in circolazione. E anche l'unico Babbo Natale che ha vinto il concorso. Vabbè, vabbè. Dali chi, là, il freak e l'altro, il frock. Freak e frock. Ariele, Ariele. Fatto una battuta, simpatico, eh? Babbo Natale. Babbo Natale, ho pronto una lista di desideri. Oh, oggi se la sente. Partiamo subito. Tranquilli ragazzi, non c'è problema. Prima del collegamento, dell'interruzione del collegamento, track. Ho già preso il lapis qui e metto giù tutta la roba. Finalmente la sentiamo allegra. Di ma allegra, sempre... allegra. Deciso. Ma che allegra. Positivo. Ah, è successo. L'è in disaster. Chi è l'è in disaster? Con le maestranze. Nani. Sempre colpa dei nani. C'è il gli elfi, gli elfi. Ma che elfi? Sono dal 79 che sono in agitazione gli elfi. Cioè, c'ho sette nani, ma sette per modo di dire. Perché uno è senza il padre sulla chitarra. L'altro? L'altro è comunità perché l'ha beccato col fumo. Vabbè, questo è un altro discorso, non voglio dirlo a tutti. Perché insomma anche una cosa da privacy. Privata, sì. E adesso c'è il biscolo che è stato morsicato dal serpente. Guarda che è una roba che non si può neanche raccontarla. Beh, un serpente al Polo Nord. Insomma. È serpente, sì, perché ne abbiamo dovuti prendere 412 serpenti, sì. Perché abbiamo dovuto confezionare un completo in pelle di serpente. No, un completo in pelle di serpente con tutti quei serpenti è un ciccione. Insomma, la taglia era tipo la 56 la 58. Ah, sì? Scusa, un ricco, un ricco personaggio eccentrico. No, non so se posso dirlo perché anche chi la roba... Lo dica. Perché... Siamo aperti a tutte le possibilità. Non sia schifo. Insomma, è Jim Morrison. No, Babbo Natale, non ci prenda per il culo. Jim Morrison è morto. È defunto. Lo sanno tutti, è morto da anni. Ragazzi, Jim Morrison è vivo e quest'anno mi ha chiesto il completing da pelle da serpente. Ma... Taglia 56. Ma è incredibile. Sono 400 erotti serpenti. Tra l'altro, uno mi è sfuggito. Che adesso devo ancora arrivare. Uno l'ha preso il bischero e adesso il bischero è in mutua e allora ma fa girare i ball. Quindi, scusi, ma lei ha l'indirizzo di Jim Morrison vivo e ciccione? Certo! Potrebbe anche dirci esattamente dov'è? Adesso ve lo dico. Rattolo! Carta e penna! Forza! No, ce lo dica, babbo! L'indirizzo di Jim Morrison! Allora, che vado via! Jim Morrison! Al lume. Presto! Senta! Lo dica! È disturbata la linea! Avete presente fuori Parigi che... Pronto? Babbo Natale! Spadino, questo non l'accetto, dai. Era lo scoop del secolo, maestro. Ma porca miseria, ma certo, sarebbe stato incredibile. E beh, che c'è? That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. time to rock and roll, baby! Vi pettiniamo! Mettete giù la spazzola e alzate il volume. Ace of Spades! Motorhead! 8 e 20 minuti primi, quasi 21. 21, dai, via. La buona giornata dall'Ariele, PBR, il delirio di questo martedì 18 di dicembre. Puntata 148! Il delirio si chiama casella di posta elettronica. Eh sì. Ariel chiocciola radiorockfm.com. Il delirio si chiama richiesta del calendario da 2008. A tutti voi che avete scritto, tranquilli, vi riscrivo entro la giornata. E vediamo un po' di organizzare il tutto. Ovviamente, essendo noi dei rocker, sappiate che nulla è già organizzato. Improvvisiamo sempre. E improvviseremo anche in questo caso. Per chi non capisse di cosa sto parlando, è semplice. Calendario 2008, l'anno della svolta. Trovate qualcosina anche su radiorockfm.com. Mentre buon Natale per Oroc. Spadino, bisogna metterla in questa mezz'ora oggi. Ti eri dimenticato, eh. Che roba, io Spadino veramente non so. Non, cioè, ma dove ti hanno raccattato? Per strada ti hanno preso te. Rimediamo subito. Eccola lì, pronta a partire. Buon Natale per Oroc, cos'è? Ve lo dico subito, è semplice. È la canzone di Natale di Pane, Burro e Rock and Roll, con l'Ariele, Fricantone e tutto quant'altro. Ce la suoniamo, ce la cantiamo da sola, l'abbiamo incisa per il Natale 2007. La canzone la potete trovare gratis, questo è semplice, su punkrockers.it, il sito della mia etichetta di autoproduzioni. Lì la scaricarete gratis, c'è il link anche su radiorockfm.com, se volete ve la sentite, c'è qualcuno che se la sente, qualcuno che se la mette sul cellulare, insomma di gente malata all'ascolto ce n'è sempre tanta. Mentre, così in generale per il calendario, io farei sapere agli amici di Milano che questo sabato siamo all'Alcatraz, via Valtellina. Ci siamo io, Max De Rio e Claudia, e ovviamente mi porto dietro il calendario 2008, l'anno della svolta. Quindi lì lo trovate, amici di Milano, sabato Alcatraz. Firenze, amici di Firenze, venerdì siamo all'Ippodromo. Siamo al plurale perché ci siamo io e Max De Rio. Quindi anche lì c'è il calendario, se venite voi è molto più semplice la cosa. Poi ci inventeremo anche altre soluzioni. Ricordo anche l'appuntamento per gli amici toscani del 12 di gennaio. È un po' più avanti, però è molto importante quell'appuntamento, perché porteremo invece le patenti da vero rocker, che fino a oggi non hanno ancora mai toccato il suolo toscano. Ci sarà il test attitudinale, ci sarà Fricantoni, ci saranno i miei pay, e ovviamente suoneremo, canteremo, faremo stupidate, faremo il test attitudinale e la patente da vero rocker, e anche lì ci sarà il calendario. Insomma, gli appuntamenti importanti sono questi. Vado con la canzone Buon Natale per Oroc. Attenti, perché dopo parte la domanda di quest'oggi. Redazione, facciamo una domanda carina. Qual è quella di oggi? Buona, interessante, sì. Sei o non sei un vero rocker? Scoprilo, restando su Rock FM. Intanto Buon Natale per Oroc. Caro babbo, babbo nel senso di Natale ovviamente, ti scriviamo perché vedi, qui il Natale non lo sente più nessuno. Dicono che è una festa commerciale, anche tu però sei un po' demodé, bisognerebbe lavorarci su. Se ti presenti in slitta, ok vabbè, ma quelle povere renne, tu pensa con una moto rombante, un giubbotto ripelle. Però nero, snellisce. Ci vuole un'idea geniale, Natale. Ci serve qualcosa, facciamo un Natale rock. Buon Natale, però un Natale rock. Un Natale sfrenato. Buon Natale, questa volta che sia rock. Un Natale rock. Già che ci siamo, mi piacerebbe tanto avere la voce del cantante degli AC/DC. Dai, dimmi di sì. Le scarpe impazzirebbero con quella barba bianca. Ehi, dove credevi d'andare? Se tutti scrivono alla concorrenza, non ti puoi lamentare. Con quel capello lungo, quel castano che fa decisamente più rock, ti straccia già in partenza, e allora sai che si fa un tatuaggio rock. Un abete! Ci vuole un qualcosa, facciamo un Natale rock. Buon Natale, però un Natale rock. Un Natale sfrenato. Buon Natale, questa volta che sia rock. Un Natale con le porche. Buon Natale, però un Natale rock. Un Natale con le catene. Buon Natale, questa volta che sia rock. Un Natale rock. Anche invecchiare come Mick Jagger degli Stones, ah, sì, mi piacerebbe tantissimo, anzi tantissimo. Magari anche avere l'agendina con i numeri delle groupies, se si potesse. Non fare quella faccia, dai. Lo sai, anche tu puoi essere un rocker se lo vuoi. Devi soltanto volerlo, Natale. Ti serve qualcosa, facciamo una sola. Pane, burro e rock and roll, avrei un test attitudinale, come di consueto a quest'ora, su questa trasmissione radiofonica. Attenzione, due bei punticini per la vostra patente. Eh sì, così, se azzeccate. Ah beh, naturalmente, ah. ovvio, però no, tentate, se no bisogna riprovare. Vado con la domanda di oggi. Ma sì, perché passiamo no? alla perché domanda no? del test attitudinale odierno. Una leggenda metropolitana vuole che Billy Corgan, leader indiscusso degli Smashing Pumpkins, da piccolo abbia interpretato un ruolo in un popolare telefilm statunitense. Ricordate quale? Come al solito, tre le ipotesi. Ipotesi A: la leggenda metropolitana prevede che Corgan abbia interpretato il ruolo di Jamie Lawson, il fratellino del robot Vicky, nel telefilm Super Vicky, Small Wonder. Oppure si vocifera che, ipotesi B, Corgan ha partecipato ad una puntata dei Robinson, altra leggenda metropolitana. Infine, ipotesi C, Corgan ha fatto, sempre secondo questa leggenda metropolitana, un provino per il telefilm La Casa della Prateria. A, B o C? Decidete, A, B o C. In fondo la scelta è limitata a tre ipotesi. Che ci vuoi e fare? Comunque restate in sintonia. Bene, perché la soluzione ve la diamo tra poco. Quindi la risposta poco dopo.